scritto con la S maiuscola. Esatto. Respirale. Respirale, esatto. Teatro. E insomma, che è la, ne abbiamo già parlato di voi l'altra volta, perché sì, abbiamo un po' anticipato. Io adesso ho un po' la questioncina di magari spostare un po' il microfono anche nella sua direzione. Wow, meravigliosa, in super, cioè veramente nessuno l'aveva mai mosso con così tanta capacezza. Ok. E beh, grazie per aver accettato questo invito, per essere qui con noi, e andremo a scoprire come, grazie al tema, al focus mensile che ci ha portato la nostra associazione Invested W&IA e Invested Irma, come farò da grande, avremo un bel po' di declinazioni del fare teatro nel contemporaneo, grazie alle esperienze di Respirale Teatro. Anche, certo. E intanto, per introdurre di nuovo il tema, mi sa che c'è un brano, no? Un fantastico brano che, diciamo, è il nostro inno del mese, la rappresentante di lista con Cosa farò. alla faccia del, com'è che l'hai chiamato? Il l'inno del mese. Vedi, il mese scorso fra l'altro abbiamo avuto dei belli ospiti musicali belli carichi, che magari non l'ho ascoltato poi bene il brano, però mi richiamavano alcune sonorità che ho intrasentito, però me la riascolterò poi bene durante l'editing della puntata. Salute. Che da domani sarà pubblicata. Scusate, confidiamo che si ricordino. Salutiamo la rappresentante di lista Dario Mangiaracina, Veronica Lucchesi, e con Cosa farò, che era questo pezzo tratto dal loro album Bubu Sed. E c'è una particolarità rispetto a questa formazione. Sì, perché Dario e Veronica vengono dal teatro, sono attori anche loro. Esatto, hai visto, quindi come coccico tutto ciò. Torniamo al nostro tema, come fare teatro, i tanti modi di fare teatro oggi e cosa significa essere attori oggi. Quindi Deborah oggi ci racconta invece l'esperienza dei Respirale, come fanno teatro i Respirale. Perché infatti super mega ospite della 133esima puntata di Coxo Spaziale è Deborah Bonci di Respirale Teatri. Binci. Sono dislessica, scusate, faccio ammenda. È anche molto carino comunque Bonci, a scanso di equivoci. Grazie. Quindi eccoci, siamo con Deborah per il Respirale Teatro. Sì, e allora noi di Respirale effettivamente non è un caso che siamo qua a fianco a Irma dei Nahia, perché siamo compagnie sempre più simbiotiche, sì, tra di loro. Unite, soprattutto dal punto di vista amministrativo o burocratico. Esattamente, perché noi siamo così, siamo un po' siamo molto inclusivi, oltre che includere ci auto-invitiamo anche, e fattispecie nell'associazione Nahia, che ci sembra per snellire tutte le questioni burocratiche, insomma tutte quelle cose anche molto difficili, anche i costi amministrativi, abbiamo deciso, mantenendo pur due anime artistiche diverse, di cooperare, ecco, perché fare teatro in Italia non è semplice, non è facile, e quindi come discutevamo nell'altra puntata, che abbiamo dedicato una buona fetta di programma proprio a questo tema, quali sono i modi per riuscire a farlo, per riuscire a tirare su una compagnia? Allora, il più comune è fondare un'associazione culturale che permetta di avere i riferimenti. In qualche caso però funziona anche che si va a prestito di un'associazione già esistente. Sì, esattamente. Esatto, come esatto. Io ho fatto molte volte. Si cerca di riunire sotto un'unica identità formale, perlomeno, come stanno facendo tante compagnie in Italia, anche a Milano, sotto Ludwig, per esempio, è nato una nuova formula di riunione di diverse compagnie che hanno degli stili diversi, ma cercano di farsi forti dal punto di vista organizzativo rimanendo unite. Ludwig. È sì. Proprio il nome di questo progetto di neocorporativismo. È il nome del progetto, diciamo, dell'associazione capofila, che ha riunito sotto di sé diverse... Ma facciamo che da domani mettiamo il link su www.coxospaziale.blogspot.com. Assolutamente sì. Il nostro piccolo contributo. Per esempio, loro è un bel esempio, quello di questo progetto milanese, perché l'anno scorso sono riusciti anche a ottenere una fettina di FUS, così facendo, cioè riunendo. È tanta roba, Che, per chi non lo sapesse, è il Fondo Unico per lo Spettacolo. Ma esiste ancora? Sempre, hanno cambiato nome. È una fetta sempre più sottile. No, si chiama ancora FUS, è il fondo che lo Stato dà a tutti le forme di spettacolo dal vivo in Italia. Sì, la distribuzione a pioggia. Esatto. Con l'ombrello. Che certe volte, di questo abbiamo discusso in altre occasioni, certe volte poi che ti arrivi la sovvenzione non è mica sempre sano e utile. Certo, no, molto sempre. Spesso la sovvenzione si riduce nell'essere affidatari di posti che sono al limite dell'abitabilità, e quindi devi metterci tutti i soldi che guadagni per ristrutturarli. Capita anche questo. E allora sciogli l'assicurazione e vai in fallimento grazie al fondo. Infatti i Respirale non hanno uno spazio, giusto? Ma in realtà abbiamo trovato uno spazio, o meglio, abbiamo adottato uno spazio. Fantastico. In una maniera che circumnaviga un po' queste qua più istituzionali, mm-hmm. Insomma. Che lo spazio si chiama La Casa di Isabella ed è uno spazio che sta in San Donato. Diciamo che per secondo la nostra, secondo il nostro punto di vista, è qualcosa di molto simile a una casa del popolo, in realtà. E in un quartiere popolare. In un quartiere popolare. Che, scusate, ma a Bologna erano e sono ancora quelle che esistono, veramente realtà molto sane, che molto hanno a che vedere con la declinazione del teatro nel contemporaneo. Sì, esattamente. E infatti questo posto che abbiamo adottato l'abbiamo fatto non da soli, ma con altre realtà sia associative che informali, come c'è Architetti di Strada, che è già venuto, sì, frequenta un po' Radio Fujiko, mi sa, o la Social Street di Via D'Uso, insomma delle realtà molto differenti che lavorano in diversi ambiti e che proprio, insomma, per questo, senza invadere l'uno lo spazio dell'altra, collaboriamo e abbiamo rimesso in sesto questo spazio effettivamente da capo a piedi, buttando giù mura, ridipingendo, proprio di tutto e di più, con l'aiuto molto, insomma, molto sentito e molto forte dei cittadini. E quindi, insomma, un lavoro a stretto contatto con il territorio. Sì, sì. Territorio, cittadinanza, costruzione di tessuto sociale, forse queste sono parole che ci aiutano anche a capire quale potrebbe essere un altro modo di concepire il teatro, non lontano dalla scena in senso moderno, cioè dell'architettura teatrale, il palco col pubblico in platea. Sì, effettivamente, prima di collegarmi al prossimo discorso sul lavoro sul territorio, sul teatro sul territorio, sì, e diciamo i palchi all'italiana, insomma, possiamo anche farne a meno, direi, ora. però appunto, per introdurre il nostro ultimo lavoro, possiamo mandare un brano. Ah, perché, ma è un lavoro che c'entra con la scena, quello lì? Non lo so, ma lo mandiamo subito o cerchiamo un pochino di capire come si va ad agire nel vivo di un quartiere, ad esempio, o di un condominio, dico una parola a caso. Eccoci qua. Perché giustamente per sopravvivere il teatro e per rimanere vivo si adatta e risponde alle urgenze del territorio. In senso molto esteso, culturalmente vi dicendo, e quindi il teatro va ad agire in luoghi che non sono quelli scenici. Poi agisce anche quelli scenici, lo vediamo dopo le menzioni. Intanto rimaniamo un attimo qui che capiamo. Io so di questo progetto di teatro condominio. Sì, esatto, è un festival che si chiama In and Out, la cultura in condominio, che è un progetto di Mirko Alboresi del Teatro dei Mignoli, che è un gruppo col quale collaboriamo, nonché un'associazione culturale, anche loro, con cui collaboriamo dal 2012 in maniera attiva nel festival dal 2013. E questa idea geniale quanto folle consiste nel portare il teatro laddove il teatro strutturalmente non c'è o sembra non esserci, mm-hmm, perlomeno. E quindi si suddivide così in e out, appunto. Out, irruzioni teatrali dall'esterno, quindi compagnie che portano. Abbiamo partecipato lo stesso anno noi e Inaia. Sì, infatti, ci siamo conosciuti 2012. In realtà proprio all'In and Out. Che carambata! Esatto, un grattacielo alla vino di mezzo. Esatto. Che meraviglia! Tra l'altro con praticamente gli albori dei progetti, esatto, che ancora adesso ci vedono praticamente in scena insieme. Ma che meraviglia! Primissimi studi. E sì, e quindi appunto irruzioni di questo tipo, spettacoli, produzioni di compagnie messe in scena in luoghi pubblici, spazi condominiali, terrazze, tetti, parcheggi, parchi. Ma raccontami un attimo, ad esempio, quello che viene fatto in terrazza, è la terrazza sopra, una grande abbastanza per contenere più persone, come funziona proprio? Ecco, ma il vostro lavoro ad esempio dov'era, per andare più nello specifico, e che cos'era? Il primo anno che abbiamo partecipato con un nostro lavoro, con un lavoro proprio di Respirale, noi eravamo nei garage. Sì. Bello. Fichissimo. Underground. Con Napoleon. Con Napoleon, esatto. E poi su Napoleon magari arriviamo dopo quando parliamo degli altri spettacoli. E mentre voi eravate al piano terra, mi pare. Noi eravamo al piano terra, sì, con Naia, gli albori di Catodico, nella saletta condominiale praticamente, che doveva diventare la saletta condominiale, perché era un edificio appena costruito in realtà, che era molto poco abitato all'epoca. Quindi diciamo andare a mettere il teatro laddove può esserci richiesta e la richiesta può esserci anche dove meno te lo aspetti. Esattamente. E poi un'altra cosa, per rimanere sempre nel tema del come fare teatro, come voglio essere da grande o no, com'era? Era così, giusto? Come farò da grande. Come farò da grande, ecco, scusatemi, io continuo, vado, poi vado via, ti lascio tutto a te. No, non ce la posso fare. Mi incuriosiva sapere queste altre declinazioni quindi formazione dal basso, leggevo nel vostro sito. Sì, esattamente. Questa la facciamo secondo due modalità. La prima, che è iniziata credo nel 2008 per opera di Veronica, Veronica Capozzoli, che è un altro membro della nostra compagnia, che è un laboratorio di formazione teatrale. Appunto, siamo molto orgogliosi di chiamarlo, del fatto che sia un laboratorio e non una scuola e non un corso, che si chiama Il Giardino del Mago, che si propone di formare giovani principianti. Quindi ci rivolgiamo ad adulti, quindi da ragazzi dalla maggiore età in su, senza limiti di età, e nell'ottica di reciproca fiducia e reciproca formazione. Quindi uno scambio tra chi segue il percorso e chi lo conduce. Assolutamente, per noi coincide con una parte della ricerca artistica, sicuramente. L'altro lato è quello che facciamo con In and Out, ovvero con l'altra faccia di In and Out. Dal 2013 abbiamo iniziato a partecipare conducendo dei laboratori nei condomini. Wow. E quindi nei condomini alla fine mettevamo in scena degli esiti di questi, sì, laboratori condotti con gli abitanti del quartiere. Ma lo facevate dentro il condominio sempre? Dentro il condominio, negli spazi fuori. Ma chi ci veniva? Chi ci veniva? Ah, guarda, e questo è sempre un terno al lotto. E poi è un'impresa, è proprio un'impresa, ha il sapore d'un'impresa ogni volta che, ogni anno che iniziamo questi laboratori qua. Perché sì. Sono lavori però sono lunghi. Una bella sfida, assolutamente, certo, assolutamente. Perché lo vai a portare il teatro lì dove appunto non è atteso, non è aspettato. Ecco. Quindi questo è un altro modo. Scopriamo nuovi modi di fare teatro. La conduzione di laboratori, che poi, come dici tu, può essere proprio parte fondante in realtà della ricerca artistica. Sì, cioè non... soprattutto perché solitamente almeno non abbiamo una drammaturgia di riferimento a prescindere, a priori, o meglio possiamo avere delle idee direttive, dei riferimenti letterari, esatto, che poi si... che, e poi ascoltiamo ciò che viene, le necessità dei ragazzi o delle persone che seguono i nostri laboratori, quindi già semplicemente a livello di tematiche o di bisogni, di necessità, di espressione, abbiamo un riscontro da chi non lavora all'interno del teatro. È qualcosa che ci aiuta a non essere autoreferenziali, che è un rischio sempre enorme, no? Anche qui al rischio, anche qui al COPS, il rischio, l'autoreferenzialità. Ci sgridano sempre per l'autoreferenzialità al COPS. Ma un esempio? Io non lo so, voglio proprio immaginarmi chi arriva, allora ti racconto il primo, sì, che è stato il più difficile, perché così di punto in bianco che è stato Romeo e Giulietta. Poi sì, che abbiamo fatto Romeo e Giulietta, abbiamo fatto poi Don Chisciotte, Pantagruele, tutti grandi, si parte da riferimenti alti. Sì. Anche uno sul pane, abbiamo fatto il pane con le sciure di San Donato, ci ha insegnato a fare la pasta madre, poi abbiamo fatto uno Fantastico. Spettacolo sul pane. E il primo, così presi anche dal panico, ma come funziona un laboratorio dove tu devi andare a cercare gli utenti, cioè dove non sono loro che ti dicono, ti chiedono, ehi, posso fare il laboratorio? Ma no, devi toc toc, ehi, scendi, facciamo teatro, hai mai pensato? Meraviglioso. Guarda, no, però ho chiesto all'Acer se mi rifà il muro che è caduto. Vorrei un documentario sui Respirale. L'Acer ci manda gli attori. Quindi li convinci che anche se non siamo muratori o giardinieri, anche possiamo... se non li rifate i muri, possiamo collaborare, altro. Esatto. E lì quell'anno mi ero infiltrata all'interno la modalità è sempre che cerchiamo cose già esistenti, mm-hmm. ovvero associazioni che operano già o gruppi che operano già, in quel caso in modo da non formare da zero il gruppo, esatto, certo. Anche se a volte è successo che non esisteva niente e allora lì è stato tutto da costruire, sì, gran pomeriggi mm-hmm. sulle panchine a attaccare le pezze a chi passa, funziona così, praticamente un'educativa di strada fondamentalmente. Esatto, con poi il second step che traduci in drammaturgia ciò che è successo. Comunque lì c'era un corso di italiano per donne e quindi mm-hmm. ci siamo infiltrati lì e piano piano quindi abbiamo iniziato a fare amicizia fingendoci insegnanti di italiano, abbiamo iniziato a fare amicizia. Infiltrati. No, l'ho scoperto, è un attore. No. Oddio. Però ha funzionato. Ha funzionato. Lo spettacolo si svolgeva poi. Era un condominio molto particolare, molto enorme, mm-hmm. fatto come a blocchi. E quindi c'erano dei corridoi tra mm-hmm. un blocco e l'altro. Di conseguenza, lo spettacolo era abbastanza suggestivo come posto. Apparentemente desolato, in realtà fichissimo. Mm-hmm. A livello suggestivo. Esatto. Insomma. E quindi si svolgevano diversi quadri, la storia era Romeo e Giulietta, alcune delle donne del laboratorio erano effettivamente in scena e quindi abbiamo sfruttato un po' tutto. Era itinerante. C'è stato anche un momento pazzesco dove, perché finiva con, abbiamo inscenato un funerale, mm-hmm. abbiamo fatto finta di essere Eugenio Barba e abbiamo fatto e abbiamo fatto il funerale di Giulietta, che era composto da tanti pezzettini di rituali delle varie donne che erano lì con noi, quindi un pezzetto marocchino, un pezzetto pakistano, funebri delle diverse esatto. culture. Ma bellissimo. Che meraviglia, ma un'esperienza del genere è di arricchimento enorme. Infatti, e alla fine c'era tutto un nucleo, poi erano dei sinti kosovari che mi hanno chiamato da parte e io ero Giulietta, quindi ero morta in quel momento e mi hanno detto scusa, sono morta un attimo, lì, arrivo dopo. Ma vero? Ho detto, ma tu che fai? Non si scherza con queste cose? Ma come? In che senso? Ma tu là eri morta veramente? Adesso no. E si sono presi malissimo e poi dopo c'è stata una conversazione interessante ha ottiche differenti sulla cosa. È stato non molto era una particolare. Cosa rappresentabile per loro in realtà. Esatto, non si poteva rappresentare. Beh, sì, sì, bellissimo. Sì. Bellissimo davvero. Sì, infatti è un antropologico. Sì, sì, sì, sì. No, sì, io ho talmente tante cose che mi si agitano in testa, immagini, ma e questo condominio poi non sarà stato mica il Pirellone, no, quel virgolone, com'è che si chiama? Quello a San Donato in fondo. No. Stava alla Pescarola. Mm. Ah. Quindi Zanardi. Me lo vado a cercare, metto il link sulla puntata di domani. Sì. Ma allora, io sono estasiata, quindi a questo punto per riavermi un attimo mi sa che mando le pubblicità delle 7:30, dai. Così mi ripiglio con delle cose sane, reali, ancora più, che anche loro fanno un sacco di tessuto sociale. No, ma guarda che le pubblicità sulla Giusta Fujiko te le raccomando. Hanno un loro perché. E a questo punto le anticipo anche con un bel jingle. Ci vediamo qui tra un pochino con quella cosa che tu sai che cos'è. Sì. Terror from outer space. Cox spaziale. E se non l'aveste capito, siamo su Cox spaziale, 133esima puntata, in compagnia della super mega galattica conduzione di Irma in veste W Ridolfini per l'associazione NAIA. Esatto. W anche lei. W, assolutamente Naya in W. Insieme alla super mega galattica ospite Deborah Binci, questa volta detto giusto, che prima per la mia dislessia avevo deformato, è una sorta ci vuole per forza, devo sbagliare almeno tre nomi alla puntata, se no non è coxo. Se no non è Fedra, sì, Boscaro. E adesso siamo proprio lì con l'angolo della menzione. Eccoci, è arrivato anche oggi. Lo so che una volta che si entra nell'ottica della menzione si diventa dipendenti, no? E quindi la prima la vuoi leggere tu per forza. Va bene, cioè, a tutti i costi. La prima menzione è giovedì 10, proprio oggi, questa sera alle 21. Teatro da mangiare al Teatro Ridotto. Questa sera a teatro si mangia davvero. La programmazione del Teatro Ridotto ospita il lavoro del Teatro delle Ariette, un evento per 30 commensali. E suggeriamo veramente di correre e sbrigarsi, che magari qua si aggiunge un posto a tavola. Assolutamente. Invece la seconda la legge la nostra ospite. La seconda è venerdì 11 dalle ore 10, La Fabbrica dei Pupazzi, un atelier di fabbricazione del pupazzo per animazione stop motion con Beatri. All'Aula Didattica Parco Grosso via Erbosa 22, il workshop, articolato in 3 giornate, offre percorso intensivo di acquisizione delle competenze di base per la fabbricazione di un pupazzo destinato alla stop motion. Ed è promossa insieme al quartiere da Ottomani, che insomma sono un pochino i fiori all'occhiello. Pensavo è promossa Deborah, che ha letto bene la menzione. Ah no, quello indubbiamente. Scusate, veramente me ne devo andare. No, ma sono oggi io in questo caso. No. E, va bene. Chi legge la prossima? La leggo io. Sì. Sabato 12 alle 18, Ogino Knaus, Re Centering Periferi, all'Atelier C. Il progetto Always Becoming di Alessandro Carboni, in residenza ad Atelier C, dal 4 al 18 marzo presenta il lavoro di Ogino Knaus, gruppo Investigazione Urbana. Oh, di Investigazione. Di Investigazione Urbana. E quello è stato il mio errore di... Che negli anni il gruppo ha percorso traiettorie oblique tra pratiche artistiche, attivismo e ricerca. E metto lo stacchetto anche perché abbiamo in linea, se c'è ancora e non è caduto, proprio Alessandro Carboni, perché in realtà questo percorso è estremamente complesso e articolato. Allora io ho chiesto, vorrei sapere direttamente da lui di cosa si tratta, sia questo incontro che so fa parte di... Ci sei Alessandro Carboni? Sì, sì. Eccolo, ciao, benvenuto al COXO. Benvenuto. Abbassa la musica di sottofondo così magari riusciamo a sentirti. Pronto? Perfetto. Ok, allora si tratta, l'evento che abbiamo annunciato adesso riguarda questo gruppo che ha base berlinese, che tu hai invitato a far parte del percorso di residenza. Vuoi spiegarci un pochino come funziona, magari partendo dalla loro attività, da quello che faranno, per poi raccontarci un po' la struttura molto articolata di questi giorni di residenza? Sì. Il lavoro degli Ogino Knaus è un lavoro che un po' seguo da ormai 10 anni, perché ho avuto modo anche di collaborare con loro. È un gruppo che si occupa di video, cinema, e la caratteristica più interessante di questo gruppo è che si spostano di città in città cercando di indagare appunto delle tensioni, trasformazioni urbane, sia in chiave sociale, politico e urbano, proprio usando più il video e l'immagine come strumento di analisi urbana. Il risultato è un lavoro di archivio, documentazione e proprio cinema che racconta questi spazi invisibili delle città. E come questo progetto entra in Always Becoming, che è il percorso e il progetto che stai portando anche qui a Bologna grazie alla residenza d'Atelier C? Sì, diciamo che il lavoro di The Always Becoming è articolato in più fasi. È in realtà una residenza artistica, quindi è una, come posso dire, una fase temporanea di ricerca. La caratteristica appunto di Always Becoming è quella di andare appunto in diverse città. Siamo già stati a Hong Kong, a Malmo, a Copenaghen, per appunto insediarci con una appunto residenza temporanea, per indagare la relazione tra città, trasformazione urbana in chiave performativa, quindi usando il corpo, diciamo, proprio come strumento di lettura e quasi di cartografia urbana, quindi il corpo come strumento di cattura delle trasformazioni urbane e degli eventi che succedono nelle città. E quindi il progetto si articola con tutta una serie di ricerche che conduciamo nella città, quindi attraversamenti urbani, camminamenti, raccolta di immagini, archivi fotografici, e in più c'è proprio una parte di azioni urbane fatte col corpo in cui si catturano quasi delle forme, delle dimensioni proprio di architetture che fanno parte appunto delle città che andiamo a investigare. Tutto questo materiale di ricerca viene poi costruito intorno a una performance e una mostra di materiali appunto visivi. Gli open mic, appunto, dove il gruppo Oggi Knock Nouse, appunto per il quale è stato invitato, sono dei momenti in cui incontriamo altri gruppi, altre realtà, artisti, teorici, che in qualche modo vanno a indagare gli stessi temi o temi simili, quindi è quasi un modo per sia confrontarci con loro, ma anche per aprirci alla città, quindi come se la residenza artistica sia un continuo divenire di materiali e di incontri, quindi non solo la città ma anche le energie che ne fanno parte. Beh, ti ringrazio tantissimo. Adesso la struttura del percorso mi sembra un po' mi sembra più chiara. Certo, bisogna venire a vedere. Io poi di questa azione di imbrigliamento di palazzi che mi sono immaginata nel mentre ne ho proprio tanta voglia. Quindi diciamo, tu continui a rimanere in residenza qui dal 4 fino al 18. Il prossimo evento legato a questo percorso sarà dedicato al lavoro di Oggi Knock Nouse con l'open mic, e poi per la settimana prossima ci saranno altri eventi di cui probabilmente faremo in tempo a parlare ancora il prossimo giovedì, perché ci sarà l'esito performativo giovedì prossimo, giusto? Sì, il 17 è il... Che sarà 18. Il tuo esito performativo rispetto a questo percorso svolto qui in città da noi a Bologna. Sì, ok. Sì, volevo dire appunto che gli open mic sono stati curati in collaborazione anche con Pier. Aspetta, anche... che c'è l'interferenza. Quindi gli open mic sono stati creati in collaborazione con Pier Sandra Di Matte, siamo collaborati per costruire tutti i vari eventi. Mannaggia, si sente tutto a parte il nome, Alessandra, a questo punto ho sentito, Di Matteo? Pier Sandra Di Matteo, sì. Pier Sandra, ok. Ce l'abbiamo fatto, abbiamo sconfitto l'interferenza. Questo è un po' in generale il progetto, saremo ancora qui per un'altra settimana, quindi... Sì, e per tutti quelli che vogliono approfondire rimandiamo al blog di Coxo Spaziale su www.coxospaziale.blogspot.com. Da domani tutti i link per approfondire questo percorso e chissà, andare anche a trovare Alessandro nel lavoro, magari durante ti contattano. La residenza. Certo. Grazie mille Alessandro. Grazie mille. Grazie allora. Ciao, arrivederci. Ciao. Eccoci qua. Sì. Ma interessantissimo, fra l'altro avevamo parlato la volta scorsa anche di come le residenze sono utili proprio per continuare a strutturare. Loro a quanto ho capito ne fanno proprio un percorso molto un altro bel profondo. Come esatto, stavo pensando proprio questo, tra l'altro a cavallo tra più stati, questo è ancora più interessante, no? Infatti percorsi internazionali è da andare sicuramente a curiosare. Fortuna che ce l'abbiamo qui grazie alle attività di Atelier C, che sono sempre molto sensibili a ciò che accade nel contemporaneo. Ecco. Come anche la protagonista della prossima menzione è molto attenta a ciò che accade nel contemporaneo, ma in ambito musicale. Questa la legge Deborah, deve leggere assolutamente lei. Sì. Martedì prossimo, il 15, alle 21.30, Martedì in giallo al Bravo Caffè. Quinto appuntamento del format concerto dedicato alla musica cantautorale, ideato e presentato dalla stratosferica Roberta Giallo. Questo martedì il salotto musicale verrà abitato da ben 4 cantautori provenienti da tutto lo stivale. Tutte le anticipazioni saranno domani sul sito, sul link che troverete sul blog, e noi chiudiamo le menzioni non con lo stacchetto solito, ma con la sigla del format Martedì in giallo. Fantastico. Serata in giallo al Bravo Caffè. Au, au, au. Se sei venuto ci sarà un perché. Sì, sei bravissimo, sì, sei fantastico, direi fortissimo e perché no. Forse sei dolcissimo, raffinatissimo, e io di certo ti ascolterò. Au, au, martedì è giallo al bravo caffè. Au, au, vuoi tortellini o del cabernet? C'è del buon vino, sa, o camomilla vuoi, per riscaldarti la voce e cantare, per farti dire dal pubblico caldo che a del bisfatto risponderai. Scende la notte, cadono note che fanno bene al cuore. La luna e le stelle, le persone belle fanno esplodere la. Abbiamo avuto anche un'altra carrambata nel mentre che ascoltavamo già, allora, i martedì, la sigla dei martedì giallo. Scusami, allora non è che non è l'autoreferenzialità, è che qui le persone di qualità si incontrano e si conoscono. Le persone di qualità. Diciamo le cose come però stanno. Però per cortesia dimmelo con un tono un po' più austro-ungarico, non lo so. Le persone di una certa qualità si incontrano, ecco. Grazie, ne avevo bisogno. E abbiamo scoperto che, vi ricordate che prima Irma all'inizio ha annunciato che per tutto marzo avremmo una canzone emblema? Esatto, esatto. Che è? Che era nel rappresentante di lista. Sì. E invece l'altra carrambata è che ai martedì in giallo è stata ospite Giulia Olivari, che è attrice protagonista. Ma no, io avevo capito, non avevo capito niente. Avevo capito. Ancora di più. Abbiamo tutti i progetti paralleli, Respirale Teatro. Allora, teatro, a Giulia, questo punto, io direi facciamo un attraversamento delle persone che qui rappresenti. Ah, beh, sì, infatti, è giunta l'ora. Allora, oltre me stessa, rappresento appunto Giulia Olivari. Che è anche cantautrice, stata ospite dell'ultimo martedì in giallo al Bravo Caffè. Non era l'ultimo, forse è stato penultimo. Sì, qualche settimana fa. Perché ne fa ogni due. Ah, ogni due. Secondo me allora, era l'ultimo perché dovevo andarci, ma sono stata dirottata. Ah, ecco. Ok. Anche la Giulia Olivari. E poi oltre Giulia Michele Pagliai, che è in scena assieme a Giulia nel nostro ultimo lavoro, di cui parleremo poi. E Emanuele Tumolo, Antonio Lombardi e Veronica Capozzoli. Ecco, ah, aspetta che la famiglia qua ci sta, qua ci sta la famiglia. E quindi sì, c'è quest'ultimo lavoro di Respirale che vede protagonisti Giulia e Michele, sì, che si intitola Again by Now. Quindi io direi cominciamo con quel brano che avevamo anticipato nella prima parte del programma, che è un brano di Mina, giusto? Esatto. Per rimanere non era una canzone. Il nostro breve incontro allora tengo di sottofondo questa atmosfera che ci ha esaltate tu, travamo lì con gli occhioni sognanti, un po' come prima, anche quando Roberta cantava Amore, Amore, anche lì abbiamo avuto un momento di imbarazzo. E quindi questo lavoro insomma ci aiuta ad entrare nel lavoro che porterete in scena prossimamente. Esatto, sabato 19 assieme a Inaia come compagnie vincitrici ex aequo di Brescia 2015. Sì. Sempre più simbiotiche. Sì, il lavoro si intitola I Game By Now e è stata una produzione con il contributo del Teatro Comunale di Castello d'Argile. Sì. E della scuola di teatro di Alessandra Galante Garrone, la scuola di teatro di Bologna, ed è uno spettacolo che ha vinto un premio piuttosto, sì, importante, che è il premio Scintille nel 2014. Che è un premio che ci ha permesso di che è stato un premio di produzione, ovvero abbiamo partecipato a Scintille come studio. Sì. Quindi con i 20 minuti canonici. e abbiamo vinto quindi una produzione da parte di Asti Teatro, che ci ha permesso di allestire e di debuttare quindi appunto ad Asti a inizio 2015, a gennaio 2015. Per chi ci ascolta, questo era uno dei come, no? L'altra volta parlavamo, abbiamo accennato ai premi di produzione, quindi spesso ci sono sempre più di frequente sul territorio nazionale questi concorsi dove si presenta solitamente un progetto unito a una prima parte di spettacolo, uno studio di solito appunto 20 minuti, questo lavoro viene valutato e se ritenuto meritevole può ricevere, come nel caso di Scintille, un premio in denaro che consente alla compagnia di concludere la produzione. E allora bravi ancora di più Respirale e bravi anche quelli di Asti, di Scintille, che hanno dato il premio loro, perché mi sembra che questo spettacolo quello sia molto interessante. Sì. Perché poi apro una parentesi, abbiamo parlato finora di Respirale come una compagnia legata al territorio che segue percorsi particolari, però è una compagnia che ha vinto un po' di premi. Sì, diciamo che è una compagnia di produzione come lo è Naia. Sì, poi siamo, esatto, anche schizofrenici e facciamo anche mille altre cose. Esatto, oltre a Scintille, prima ancora di Scintille, c'è stata anche la menzione speciale al premio Scenario Ustica. Sì, 2011. Correva l'anno 2011 con l'Italia, il paese che amo. Che un po' quello è stato gli albori della compagnia, mi sa che nasceva proprio, sì, in quegli anni il gruppo. La compagnia era nata qualche anno prima, nel 2008. Mm. E Scenario è stata la prima tappa importante. Mm. Eravamo già all'interno di un paio di circuiti che erano Libero Circuito, Teatro Net, e poi invece con, sì, Scenario abbiamo fatto un salto interessante, insomma. Ecco. Invece a Game By Now, come diceva Fedra, è come ci introduceva Mina prima. È meraviglioso, ogni volta che guardo su verso l'orologio Irma capisce che bisogna scattare di contenuto. È meraviglioso. Insomma, questa storia assurda, che è il caso di dirlo, di questi personaggi Berta e Boxer, sì, proprio Giulia e Michele, questa coppia, sì, che definire coppia è, sì, non, coppia, non so che figura retorica. Una coppia al cianuro, mi piace. Sì, è partito il lavoro, come scritto nelle note di regia, è partito in tempi non sospetti dalla Fattoria degli Animali di Orwell, da cui appunto Berta e Boxer, che da sono i cavalli della Fattoria degli Animali, esattamente. E da lì siamo partiti con una riflessione molto postmoderna sulla fine, che in realtà non è niente di così concettuale, sì, perché siamo molto solubili, come dice il nostro sottotitolo. Utilizziamo dei linguaggi molto pop, come anche In Again, che appunto parte con un linguaggio che assomiglia al teatro dell'assurdo in qualche modo, e che è una riflessione sempre più esasperante sul concetto di fine, nelle varie declinazioni, nella coppia, e una riflessione sul sistema. Oltre a tutto questo, anche una riflessione su uno dei grandi mali del mondo moderno, ovvero l'incapacità di prendere una scelta, di prendere una decisione. Di chiudere, ecco. Di chiudere. L'importante è finire, si diceva. Esatto. E nonostante queste tematiche belle, impegnative riflessioni, nello spettacolo, a vedere lo spettacolo si ride un sacco. Ma secondo voi, se ascoltiamo adesso il promo audio, potremmo farci un'idea di come... Prima del 19. Boxe, tesoro, è finita. Lo so. Com'è successo? Non lo so, ma è finita. Lo so. Lavori troppo, cuore? Come tutti, amore. Io non lavoro troppo, zuccherino di marzapane. Tu non fai un cazzo dalla mattina alla sera, piattina di torta caramellata alle mele. Io almeno non mi sputterò la tredicesima vignotta e fiorellino di campo che c'è per me. Maledetta serpe, sanguisuga, depressa, vendita al pezzente. È finita. Dici che è tutta colpa nostra? Avete bisogno di me e quindi non mi astengo quando senti il dovere di portare soccorso a chi ha bisogno. Noi che abbiamo sempre creduto in lui. Lui che ci ha fregato fin dal primo istante. Noi che non abbiamo mai cambiato faccia. Noi che sì, tre volte. E comunque continuato a mantenere priorità di faccetta borghese dalla giuniera arricchito. Io tornerò io. Tu tornerai in tu. Mi dispiace tanto di tutto. Tu stronzi. Ah, vedi, ci avete messo anche quello lì. C'è anche quello lì. Come poteva non esserci? E Mina di prima è una... Perché la colonna sonora, poi non riveliamo altro, però la colonna sonora sì, è una fantastica compilation. Cioè, possiamo dire che questo spettacolo è un continuo coito interrotto di questa fine che non arriva mai. Ok. E la musica sottolinea molto questo aspetto. E quindi andrà in scena il 19 marzo. Assieme a Inaia. Ma da domani su www.coxospaziale.blogspot.com posso mettere anche i link dei promo di entrambi gli spettacoli? Assolutamente direi di sì. Sì, che bello, non vedo l'ora di pubblicarlo. Che sono appunto Again by Now e Catodico oltre lo schermo, insomma, vincitori del premio della giuria popolare del Brisa 2015. Questa volta ci voleva lo stesso. È una puntata ricca di... colpi di scena. Di piatti. Meraviglioso. Allora, rimangono pochi minuti alla conclusione di questa scintillante puntata, 133esima puntata di Coxo Spaziale. Abbiamo qualcosa che abbiamo dimenticato? Farei tre menzioni lampo per degli altri... Per sottolineare il fatto che siamo simbioticissimi noi e Naia, e il disegno Luci è di un membro di Naia. Assolutamente, di Federico Cibin, che investe l'associazione W Naia, sarà qua la prossima settimana. Sorpresona, i piatti non li metto. No, però ecco, insomma, iniziamo a moltiplicarci. Ecco, bene. A moltiplicarci. Mi piace, in questa co-conduzione. Esatto. E il materiale fotografico è di Laura Caressa, nostra grande amica, aiutante e collaboratrice, e la drammaturgia, oltre che delle scritte dalle mani di Veronica e Giulia Michele, anche di Luca Serafini, che è nostro grande amico, nonché ex membro della compagnia. Quindi una drammaturgia scritta a quante? Due, quattro, sei, otto mani. Tante mani. Che ci piacciono, come le otto dell'Associazione di Animatori Bolognesi. Ma allora, se non ci sono altre cose, una curiosità me la toglierei io. Rispetto a questa, come affrontate la creazione della drammaturgia quando lavorate in questa direzione? Allora, la creazione della drammaturgia è... Allora, dipende, non abbiamo un metodo, chiaramente, non c'è un modus operandi standard, esatto, ogni progetto è diverso. Ciò che è, cioè, il fil rouge di ogni progetto, posso dire che è quello la drammaturgia comunque scaturisce dagli attori e dalla scena. Quindi non è un lavoro di scrittura di scena che sì, parte da lì, parte dalla, quindi da improvvisazioni, sì, dalle improvvisazioni e dal riflessioni che avvengono comunque all'interno della sala prove, non tanto a tavolino, anche se c'è sicuramente anche una ricerca a tavolino. Anche, insomma, sì, una di ricerca materiali attoriale. Ah, sì, sì, sì, esterna, anche certo. La ricerca, diciamo, di materiali letterari. Certamente. Però poi si sviluppa in altro modo. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, tant'è che appunto per chi vedrà lo spettacolo il 19, sebbene siano partiti da Orwell, poi... Sì, perché lui diceva in tempi non sospetti, no? E sì. Quindi l'idea è passata nella testa magari di qualcuno del gruppo che poi l'ha buttata lì e poi magari è venuta l'occasione di un concorso e quindi perché sì, non sì, portiamo sì, quell'idea e allora ci si comincia a lavorare. Sì, e infatti Again by Now in realtà è la terza evoluzione di un progetto che inizialmente era composto da 3 studi da 20 minuti che poi sono diventati 2 da 30 minuti e poi è diventato Again by Now che dura 55 minuti. È meraviglioso, alle 8 full in and out, perché questo, gli albori di quel progetto, così come gli albori di Catodico, nacquero appunto nel 2012, esatto, sotto l'in and out, il Festival della Cultura in Condominio che si diceva prima. Voilà. Io adesso c'ho il momento che comincio a guardarmi a destra e a manca per capire che ore sono, se sono cominciati. Ah, sono arrivati. Sono arrivati. C'è sempre quest'ansia di quando arrivano gli spot, quando arrivano. Perché compaiono di là. Questo però è autoreferenziale, non si fa, ragazze. Quindi no. Purtroppo la seconda puntata di co-conduzione coxica con www. Quante www? Niente, siamo Irma, fallo associazione tu. WIA in veste di Irma Ridolfini. Irma, facci tu dei saluti, degni, ecco, di questo nome, la per favore. La 133esima puntata di Coxo Spaziale finisce qui. Salutiamo Deborah Vinci della Ciao compagnia a voi e grazie Respira a voi al teatro. Grazie per essere venuta e speriamo di rivederci l'anno prossimo, magari parliamo del nostro nuovo lavoro. Wow, c'è un nuovo lavoro! E intanto vi vedremo il 19 marzo allo spazio Eco di Casalecchio. Va bene. Allora, ciao Federica. Io ti ringrazio. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo membro di questa. Anche Naia, super piena di nomi, persone diffuse nel mondo. E vi presenteremo poi, tra l'altro, altri ospiti, altri modi di fare teatro per questo fantastico tema del mese. Grazie a tutti. Grazie a voi. A prestissimo. A presto.